noi siamo abbastanza contenti di intanto della risposta delle persone di Centocelle, insomma c'erano quasi un centinaio di persone per un'assemblea pubblica di lunedì alle 5:30, insomma ci sembra una partecipazione numerosa e soprattutto una partecipazione molto attiva. Noi abbiamo faticato a stare dentro i tempi che purtroppo avevamo, che non erano molto larghi, un paio d'ore e mezza, proprio perché c'era molta voglia da parte dei cittadini di dire la propria, sia in termini di lamentela barra protesta, ma sia in termini di proposizione. E anche la risposta del municipio è stata numerosa, nel senso che è venuto il presidente del municipio, l'assessore all'ambiente, l'assessore alla mobilità e l'assessore al commercio, e dopo un po' è arrivato anche il vicepresidente del municipio. Quindi avete fatto un consiglio di giunta? Sì, quasi, tanto che perché poi dopo un po' sono arrivati anche i consiglieri dell'opposizione del centrodestra e i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Quindi diciamo evidentemente questa questione di Via dei Noci, questi cittadini che vogliono dire la propria in termini di opposizione a un progetto, in termini di proposizione su come utilizzare il ciolo pubblico, o li ha spaventati o li ha incuriositi, sta di fatto che sono venuti in forza e sono venuti. Ricordiamo che il tema dell'assemblea era suolo pubblico, utilizzo pubblico, a ribadire la nostra contrarietà alla costruzione di box privati interrati da parte in posti, in zone scelti da costruttori privati, e al contrario la nostra volontà di proporre progetti che fossero voluti e utili ai cittadini stessi, insomma. Quindi sono venuti in forze e hanno dimostrato, almeno a parole, ora poi vedremo come andrà a finire, di essersi già mossi su nostra sollecitazione. Ci hanno raccontato che hanno incontrato l'assessore alla mobilità del Comune di Roma in Prota, proponendogli di delocalizzare l'intervento, la costruzione di questi box privati da Via dei Noci in un'altra zona che non hanno voluto dire, ma hanno assicurato, sempre nel territorio dell'attuale quinto municipio, ma hanno assicurato che si tratta di una zona in cui è già costruito uno scheletro di box, praticamente di specie di palazzo, abbandonato ormai da anni, perché sostanzialmente il costruttore che l'aveva in carico non so se è fallito, ma insomma questo è quello che loro hanno fatto capire. Quindi loro hanno proposto al Comune di Roma di spostare questo PUP da qui, da Via dei Noci, a quest'altra zona e far proseguire la costruzione di quei box al costruttore che avrebbe dovuto costruire i box in Via dei Noci. Ok, quindi diciamo, dimmi. Questo dal punto di vista della burocrazia, in che maniera poi si potrebbe inverare, ecco? Ma allora noi ovviamente abbiamo chiesto di andare avanti e quindi essere presenti e farci sapere quali saranno i prossimi appuntamenti, ma la nostra volontà è quella di mettere un altro tassello e quindi andare a depositare al municipio il progetto, la relazione, il progetto di ristrutturazione di Via dei Noci che abbiamo presentato anche ieri sera. Quindi allora avete detto questo, bene, allora discutiamo anche di quest'altro. Quindi abbiamo chiaramente detto che diciamo ok, grazie delle belle parole, a quanto pare siete impegnati, va benissimo, ma noi insomma chiaramente vigileremo e vi incalzeremo affinché questa proposta arrivi a buon fine. A detta loro, in prota si è dimostrato incuriosito e possibilista, queste sono state le loro parole, insomma. Quindi, è già qualcosa. È già qualcosa, sicuramente è già qualcosa. La cosa che ha, insomma, loro hanno, in particolare l'assessore alla mobilità ha parlato di questo progetto, ha detto delle cose tra l'altro molto sensate. Diciamo, tra l'altro faccio questo piccolo inciso, per i cittadini di Centocelle è stato un po' così, erano abituati a questi ai governanti del settimo municipio, non proprio giovanissimi, si sono presentati invece questi governanti tutti sotto i 40 anni, con idee, linguaggi molto disponibili, molto legati alla partecipazione, addirittura per l'appunto la stessa mobilità che ha detto chiaramente che le questioni legate alla riduzione delle macchine sono quelle dei trasporti pubblici, ma anche degli stili di vita, quindi ha invitato tutti ad utilizzare la bicicletta e ha messo a conoscenza i cittadini del fatto che loro stanno facendo una mappatura utilizzando i diari della bicicletta, per poter poi da questa mappatura progettare una ristrutturazione urbanistica della viabilità che tenga conto proprio anche dell'uso del bicicletta. Senti, che dire? Vai, sì. vai, che dire? Poi... che dire? Che, diciamo, poi ovviamente lì, insomma, sì, le altre questioni appunto erano legate alla mobilità, alla questione della metro C, sulle quali loro hanno potuto dare ben poche assicurazioni perché è un po' fuori dalla loro orbita, ma hanno assicurato e anzi hanno auspicato che noi, che siamo un esempio per tutti i cittadini che partecipano, insomma, tante belle parole per dire che sono disponibili ad ascoltare altre nostre proposte, nostre non solo perché davano pupo ovviamente, ma dei cittadini che in quel quadrante vogliano esprimere e dire la loro. C'è un altro dato che guarda un po', proprio l'assessore alla mobilità ha portato e ci ha detto che loro si sono spaventati perché, come noi sospettavamo, loro conoscono molto poco l'ex settimo municipio, perché vengono quasi tutti dall'ex sesto, e dice che facendo una ricognizione sugli interventi architettonici urbanistici previsti, si sono resi conto che nell'ex sesto municipio sono previsti almeno 25 interventi dove per interventi si intende cemento, in sostanza. Quindi l'assessore, tu ha detto che si è spaventato, noi abbiamo detto che si è spaventato te, figuratelo. E quindi anche su questo, insomma, poi le persone si sono espresse per ovviamente contrarietà e è stato a quel punto l'assessore che ha invitato a vigilare affinché questi interventi o non vengano fatti o venga fatta una moratoria per bloccarli e riprogettarli, insomma, questo per dire in che situazione di degrado urbanistica è l'ex settimo municipio. No, è un po' curioso, nel senso che di solito, diciamo, la dialettica dovrebbe essere che i cittadini vanno dall'amministrazione, qualunque essa sia, e dicono: ci siamo accorti di questa cosa, non ci piace, che venga l'amministratore e dica, esatto, al residente: oh, guardate che sta succedendo questa cosa. È un po' surreale come situazione. Sì, infatti, guarda, da sicuro è stato particolare, insomma, questo, ascoltare la relazione di questo assessore, insomma, che tra l'altro è arrivato in tutta la ginnastica correndo perché appunto lui non prende l'auto, vabbè. Sentire, staremo a vedere, noi siamo contenti, poi insomma, diciamo, la cosa che è emersa è stata la grossa partecipazione delle persone, la validità di un percorso non solo di opposizione a un progetto, ma di costruzione di un progetto invece che fosse utile ai cittadini, e il fatto che le persone erano lì che volevano dire la propria, in termini sia di protesta che costruttivi. Più persone hanno chiesto di associazioni di centocelle di poter avere degli spazi fissi di partecipazione, come tra l'altro previsto dal regolamento del Consiglio Comunale di partecipazione dei cittadini alle decisioni che riguardano le scelte sul territorio, insomma. Senti, ma questi interventi, diciamo, urbanistici nel settimo municipio sono stati citati alcuni, almeno quelli più grossi, oppure era soltanto un elenco così, adesso bisognerà andare a scoprire quale? Diciamo, cioè, poi appunto il tempo non era molto, si è parlato, lui in realtà i riferimenti che ha fatto sono stati più, uno, quello di Viale della Primavera, ha parlato di 40, ora potrei essere... Potrei sbagliare con le cifre, ma tipo di 40.000 metri cubi di cemento a Viale della Primavera, vicino al mercato di Viale della Primavera, al quale loro si sono opposti e hanno fatto in modo che non fossero costruite. Poi ha parlato di delle torri che erano previste, che avrebbero dovuto essere costruite dentro l'ex SNIA. Però diciamo non è entrato molto altro molto più nel dettaglio, anche perché per l'appunto noi abbiamo cercato di, il tempo era poco, le domande sulle questioni mobilità, certo, queste erano perfettamente attinenti sulla questione dell'uso del suolo pubblico, però insomma abbiamo cercato di andare un po' più al punto, ecco, fermo restando che si sono aperti, insomma, un po' squarciati i veli che coprivano queste questioni, e quindi quello che noi ci proponiamo è di proseguire anche nell'indagine rispetto a queste questioni. Certo, comunque diciamo in conclusione questo significa che il comitato non ferma le sue attività di fronte comunque anche allo stop, che adesso vedremo, insomma, se ci sarà anche effettivamente, diciamo, ma prosegue in qualche modo anche dandosi un orizzonte più ampio. In realtà ancora non ha raggiunto nessuno dei suoi due obiettivi principali, in sostanza. Uno era il fermo della costruzione del CUP, per il quale si è incamminati a quanto pare verso una soluzione positiva, ma l'altro obiettivo è quello della riqualificazione di quella via e di tutta quella zona, perché insomma non è che noi, cioè, lì ci stanno i cantieri della metro vicini, c'è un livello di degrado che va dalla non pulizia delle strade alla non potatura degli alberi alle macchine che stanno ovunque in doppia, terza fila sopra i marciapiedi, eccetera. Quindi diciamo l'altro obiettivo del comitato è quello di riqualificare quella zona e riqualificarla con degli interventi che vengano dal basso, insomma. Quindi sicuramente il comitato non ferma la sua attività e anzi da una parte cercherà di garantire che effettivamente il primo obiettivo venga raggiunto, cioè lo stop della costruzione dei box, e dall'altra continuerà a spingere affinché la riqualificazione di quel quadrante di quartiere venga fatta, e venga fatta con criteri che sono utili ai cittadini, insomma. Quindi su questo non c'è dubbio, ecco. Questa forse è l'unica certezza reale. Va benissimo. Senti Maurizio, ci sono altre iniziative, incontri a stretto giro di posta per quanto vi riguarda, come vi organizzerete? Guarda, non decise, abbiamo intenzione di fare una cena per chiudere un po', una cena sottoscrizione per chiudere un po' questa fase, che probabilmente sarà fra, insomma, una quindicina di giorni, e poi c'è una sorta di coordinamento di situazioni territoriali che in tutto l'ex settimo municipio, insomma Centocelle dintorni, si sta tentando di organizzare, in cui noi siamo una piccola parte e probabilmente qualcosa verrà fuori anche da questo tentativo di coordinamento, insomma. Va benissimo, quindi possiamo riaggiornarci, diciamo, al post vacanze più o meno, se questi sono i tempi che mi pare di aver capito. Va benissimo, Maurizio, ti ringraziamo, ti chiederei di rimanere un attimo in privato se puoi. Perfetto, ringrazio tutti, un saluto a tutte quante e tutti.